9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 24 di ottobre. Avete visto il fine settimana con i vertici europei che ha abbondantemente confermato le tesi che vi illustriamo da settimane, da mesi, ormai da due mesi, giorno per giorno, da questa emittente e anche da questa trasmissione. La risata del cancelliere tedesco Angela Merkel e del presidente francese Sarkozy era una risata inequivocabilmente sull'Italia, dell'Italia, della credibilità italiana, di quello che non abbiamo fatto rispetto alla lettera richiesta dalla BCE in cambio del sostegno all'acquisto dei titoli del debito pubblico italiano. Le giustificazioni di cui è stato prodigo il Presidente del Consiglio ieri, dopo essere andato all'Eurovertice dicendo che lui non era mai stato bocciato, che sono improntate a frasi del tipo cosa ci posso fare, mi impediscono di fare quello che io per primo avrei voluto fare, eccetera eccetera eccetera, lasciano il tempo che trovano. Adesso l'impegno è entro mercoledì, quando i leader europei si reincontrano, perché ieri è stato raggiunto un accordo solo sui 108 miliardi per la ricapitalizzazione di 90 istituti bancari europei, manca l'accordo ancora sul meccanismo di leverage finanziario dell'FSF, quindi per salva stati, e manca l'accordo sulla percentuale di taglio volontario obbligatorio delle banche titolari di carta pubblica greca sul totale del debito pubblico greco, e c'è ancora una forbice aperta fino al 60%, che dovrebbe essere poi la percentuale vera. Ci si rivede mercoledì, perché oggi la Merkel va al Bundestag, che la deve autorizzare, come sappiamo, dalle clausole del recepimento del trattato tedesco. Noi abbiamo assunto questo bel impegno a fare in 48 ore ora tutto quello che in questi mesi il governo non ha fatto, vedere per credere. Il Presidente del Consiglio lascia credere che c'è l'azzeramento delle pensioni di anzianità entro il 2015. Ah, va bene, vedremo. Poche ore giudicheranno a questo punto se tutto quello che non ha fatto prima è colpa comunque, perché gli spread incorporati li stiamo pagando noi. Nel caso contrario, se non lo fanno neanche questa volta, capiterà quello che deve capitare. Se non capita niente, voglio dire, ha ragione qualcuno che oggi sui giornali tedeschi dice: ma se noi aboniamo il 50% del debito greco, perché a Roma non dovrebbero capire che anche per loro potrebbe funzionare allo stesso modo? Come sempre la lettura dei giornali tedeschi è molto utile, è molto utile. Questa tesi che vi ho detto del perché il governo italiano non dovrebbe trar vantaggio e magari applicare a se stesso un domani anche il taglio del debito greco è illustrata da Holger Stelzner, che è un editorialista, anzi che è praticamente il capo del servizio economico del Frankfurter Allgemeine, sulla FAT di oggi. Ma la puntata di oggi è dedicata a un altro tema. Questo tema ci è venuto in mente quando qualche giorno fa, la settimana scorsa, abbiamo letto che il Presidente del Consiglio, sempre lui, aveva dato ai parlamentari del PDL un giudizio sulla televisione, come sua principale nemica, naturalmente subito dopo le procure, dicendo: ma non vedete, cadiamo nei sondaggi, ma non vedete come è ridotta la televisione? La televisione è, tra virgolette, allucinante. Questo era un giudizio a proposito dei format televisivi di informazione che sarebbero in uniti nei confronti oramai del governo e del Presidente del Consiglio, condurrebbero una vera e propria martellante quotidiana campagna orientata a levare consensi e a deformare l'azione del governo e le condizioni nelle quali il governo opera. Allora, partendo di qua, ci siamo posti il problema di capire con esperti, meno possibile insomma con toni da bar sport o di appartenenza politica, se in questi due anni, quelli del declino del consenso degli italiani del governo, fosse cambiato significativamente, apprezzabilmente il format, i format delle trasmissioni che fanno informazione e approfondimento politico in televisione, primo; secondo, di continuare e tentare di farne un esame comparato rispetto a come queste trasmissioni o analoghe o difforme sono svolte, concepite, prodotte, realizzate e offerte in altri grandi paesi europei, perché poi è sempre questo uno dei criteri da tenere in considerazione rispetto al concentrarci sempre troppo sulle cose di casa nostra. Andiamo a vedere come sono fatti i talk show o i programmi di approfondimento giornalistico negli altri paesi. Sono più indulgenti verso la politica o sono più rigorosi e più secchi ancora, con domande incalzanti e senza sovrapposizione di voci, senza ridurre tutto a una lizza di torneo, insomma, per così dire. Ultima conclusione e ho finito per presentarvi gli ospiti. Il caso vuole che venerdì la settima sezione penale del Tribunale di Milano, per il giudice del dottor Barazzetta, mi abbia assolto da un procedimento che era a mio carico, che mi era stato appioppato in quanto presidenza e vertice della RAI dell'epoca, presidenza Petruccioli, e sindacati rappresentanti dei dirigenti RAI, ritenevano che un articolo da me scritto avesse diffamato chi guidava la RAI, l'intero corpo dell'azienda e la dignità professionale di chi vi lavorava, perché avevo scritto che la RAI era lottizzata. E lo avevo scritto a proposito di un tableau, di un ampio tableau con più di 100 nomi di dirigenti apicali della RAI che erano catalogati per appartenenza politica. C'erano quelli del centrodestra, c'erano quelli del centrosinistra, c'erano i cosiddetti tecnici, e questo documento che c'era pervenuto nelle mani conteneva poi delle, oltre che le caselle di colore politico, anche delle premesse per nomine che sarebbero avvenute poco dopo. Il processo mi è stato intentato con richiesta di denari abbastanza eclatanti, il giudice ha deciso che il fatto non sussiste, e devo dire con mia particolare soddisfazione, per il semplice fatto che se siamo al punto che ancora i vertici RAI, che pure sono i primi quando non sono in carica pro tempore a dire che la RAI è lottizzata, ti querelano chiedendoti soldi quando metti le mani su un documento che prova a tutti gli italiani come viene catalogato dall'interno, dagli uffici apicali del personale della RAI, la dirigenza RAI per fare una qualunque nomina, vuol dire che ovviamente è una sfida alla legge di gravità. Sono contento di dirvi che sono stato assolto, non per me, ma perché evidentemente il diritto all'informazione, quando ha prove conclamate di come conducono le vicende in RAI, secondo me fa bene a non mollare la preda fino a che un giorno o l'altro, speriamo, qualche cosa possa cambiare. Allora chiediamo ai nostri ospiti che pensano loro intanto delle trasmissioni di informazione televisiva italiana rispetto alla crisi di questi due anni. Vi presento i nostri ospiti. Sono con noi Aldo Grasso, critico del Corriere della Sera, storico della televisione. Buongiorno Grasso. Buongiorno. E Massimo Bernardini, giornalista, anch'egli conduttore di TV Talk su Rai 3. Buongiorno Bernardini. Buongiorno. Allora Grasso, a sua opinione vi è stata una modifica sensibile dal suo punto di vista, e se c'è stata di che tipo, come, in questi due anni, che giustifichi in qualche misura le parole di Berlusconi o la caduta del prestigio del governo? Si è incattivita l'offerta giornalistica televisiva secondo lei? Intanto mi permetta di dire che passerò la sentenza che l'ha assolto al mio avvocato, perché anch'io ho una querela analoga da parte dei vertici della RAI, quindi spero che faccia sentenza, faccia giurisprudenza, come si dice, la sua sentenza. E poi, guardi, il problema sono due. Allora, uno è che quando si sente parlare di format a proposito di trasmissioni di approfondimento mi viene un po' da ridere, perché il format consiste in un giornalista che dovrebbe fare alcune domande ad alcuni ospiti, quindi non ci sono grandi format, insomma, contano le persone presenti, conta il tipo di giornalista. Detto questo, è vero, cioè la televisione italiana è molto vecchia da questo punto di vista, cioè noi siamo fermi a un modello di televisione, almeno quella generalista, fermo agli anni Ottanta. E paradossalmente fermi a un modello creato dalle televisioni di Berlusconi, e quindi anche quelle cosiddette di opposizione, anche quelle le trasmissioni contro cui Berlusconi si scaglia in prima persona, sono nate in quel clima degli anni Ottanta, e quindi sono ferme a questi scontri. Il difetto principale è questo: non c'è una sola trasmissione di approfondimento politico, di discussione, eccetera, che aiuti lo spettatore a fare un piccolo viaggio, un piccolo percorso, per cui all'inizio ha un'idea e alla fine ha qualche dubbio su quell'idea. Questo si chiederebbe al massimo. Invece da noi lo schema è sempre uno schema frontale, per cui si affrontano delle persone, ognuno la pensa come, così, secondo la propria ideologia, per tutta la trasmissione combatte ad affermare quell'idea, e quindi non c'è un avanzamento, non c'è la possibilità di porre dei dubbi, non c'è la possibilità di creare qualche cosa di nuovo. Tutto questo ovviamente così è una televisione incancrenita, è una televisione che non so, non aiuta la crescita del paese. Questo penso che sia il dramma peggiore. Io sto sorridendo perché naturalmente sono partite immediatamente le reazioni dei nostri ascoltatori dicendo due ospiti schierati a sinistra, Giannino vergogna. Io non lo so, in base a che cosa giudicate invece della competenza? Lo dico perché ovviamente mi preoccupa molto che anche tra i nostri ascoltatori ci sia questo atteggiamento. Io non smetterò mai di criticarlo, mi sembra una specie di assunzione speculare dell'abito dei difetti della politica italiana anche nella maniera in cui si ascoltano, si giudicano le trasmissioni. Grasso, se facessimo proponessimo a chi ci ascolta qualche esempio, magari chi ci ascolta non ha molto tempo per guardare o ha una barriera linguistica, mi auguro che siano in pochi ad averla, a guardare ogni tanto un po' di televisione europea, che cosa soprattutto di esempi di approfondimento, di informazione televisiva di taglio giornalistico in Francia, in Germania o in Gran Bretagna secondo lei bisognerebbe introdurre, forse a cominciare dal servizio pubblico? Sì, cominciamo dal servizio pubblico perché è proprio lì il guaio storico che noi ci portiamo dietro, cioè la nozione di servizio pubblico che è nata nell'immediato dopoguerra, almeno si è sviluppata nell'immediato dopoguerra in Gran Bretagna, è fondata su un principio che noi non conosciamo, e cioè quello dell'indipendenza dell'informazione, cioè questo è il principio cardine che regge il servizio pubblico. Da noi fin dall'inizio è successo che invece l'informazione è sempre stata una sorta di amplificazione del potere, qualunque potere sia andato al governo ovviamente, ognuno ha sempre fatto questo tristissimo lavoro che umilia davvero la RAI, che umilia il servizio pubblico, che come conquista le elezioni, come vince le elezioni, la RAI diventa una sorta di bottino di guerra. Uno se la prende, cambia la catena di comando a seconda dei propri desideri, lascia qualcosa all'opposizione giusto per continuare la finzione, ma il problema principale dove non si riscontra né in Gran Bretagna, né in Francia, né in Germania è proprio l'indipendenza dei giornalisti, cioè là fanno delle domande, esigono delle risposte, da noi possono anche fare le domande, ma poi nessuno sta attento a quello che l'altro risponde, se va fuori tema, se si mette a urlare, se fa tutte cose, si pretendono delle risposte, senza appunto poi entrare a parlare di format o cosa, cioè un giornalista fa le domande al politico ed esige delle risposte, il pubblico giudica da come il signore risponde se è degno di continuare a governare il paese oppure se deve andare a casa. Ecco, io sono molto d'accordo su questo. Io credo che più che un problema, nella mia modestissima e limitatissima esperienza, più che un problema di censura che qualcuno ti impedisce di fare il tuo mestiere, ci sia in larghissima misura, nella mia esperienza che ormai da diversi decenni, c'è un problema di autocondizionamento del più. Io non giudico i miei colleghi, non mi ergo a giudice di nessuno. Dico che mi è capitato in molte redazioni, in molte testate, e mi è capitato spessissimo quando vado in televisione, mi è capitato alla volta in cui mi hanno attribuito la responsabilità di una trasmissione su Rai 1, ed era una trasmissione molto importante perché andava dopo il TG1 delle 13:30 con l'idea poi di mandarmi la sera, e l'ho presa che erano 4,8 milioni di ascoltatori, l'ho fatta salire di 1 milione in 3 mesi, non mi hanno confermato, non ho mai fatto la vittima, ma non mi hanno confermato esplicitamente dicendomi che io non contrattavo gli ospiti, non contrattavo i temi, non facevo vedere le domande prima e quindi ero pericoloso, volevo troppo il taglio delle tasse eccetera eccetera. Non ne ho mai fatto questione di vittimismo, credo che sia giusto che chi ha la responsabilità editoriale pro tempore di una rete RAI decida e dica, quindi mi hanno accompagnato alla porta, io ho molto ringraziato, ma la cosa che è capitata a me è la dimostrazione che si può fare benissimo, certo magari non ti confermano, ma si può fare benissimo, cioè io andavo in diretta senza contattare prima e non me lo potevano impedire, almeno per la durata ovviamente del mio contratto. Probabilmente c'è un atteggiamento di molti giornalisti che pensano che così ci si pregiudica per il futuro, ed è assolutamente vero, ma se facciamo massa su su comportamenti di tipo diverso. Dopo una certa unità di tempo passa il comportamento diverso di quella che diventa la massa maggioritaria dei giornalisti. Questa è la mia modestissima opinione. Io ringrazio molto Aldo Grasso per quello che ci ha detto. Chiedo a Bernardini, dal suo punto di vista, oltre diciamo, all'autocolpevolezza dei giornalisti, di cui mi assumo io l'onore di parlare come rappresentante della categoria, sempre ringraziando molto il mio avvocato Carlo Mezzi de Ril, grazie al quale sono stato assolto venerdì, perché sennò avrei dovuto pagare un mucchio di soldi e non so come avrei potuto veramente fare, un mucchio di soldi mi hanno chiesto, per un documento che veniva dagli uffici della RAI, ripeto, con tutti i colori e le bandierine, e a sentirsi dire adesso dal Presidente del Consiglio che le trasmissioni sono allucinanti. A me pare che in realtà l'unica cosa che è cambiata è che per il momento non c'è Santoro, che adesso vedremo, giudicheremo nel suo nuovo, nella sua nuova tipologia, diciamo così, di trasmissione, come funzionerà la rete su cui ha proposto tra poco la sua trasmissione dopo che non è andato sulla 7. Poi per il resto c'è la trasmissione di Formigli, per il resto a me sembra tutto assolutamente uguale a prima, non dico buono, uguale a prima con tutti i difetti di prima. Ma invece Bernardini che opinione ha? No, secondo me c'è qualcosa di nuovo, a parte mi viene da dire una battuta sul problema dei giornalisti che non fanno domande, su cui sono d'accordissimo, e perché non ci chiediamo come mai la gran parte dei dirigenti delle reti di Rai e Mediaset sono dei giornalisti? Punto di domande, la lascio lì, la butto lì, insomma, ecco. Con tutti i difetti che questo comporta, ecco, ma mi fermo qui. Invece c'è qualcosa di nuovo, caro Oscar, secondo me innanzitutto che la TV leggera, che è proprio quella che ha rivoluzionato Berlusconi 20 anni fa, 30 anni fa, è di colpo inattuale. Questo è un dato, cioè questo settembre, questo ottobre ci sta dicendo che la gente premia ogni genere di TV d'inchiesta, di talk show, di approfondimento, anche quella brutta, anche quella vecchia, insomma. Quindi questa domanda è una cosa nuova che si è moltiplicata e stanno andando quasi tutti bene, ecco, però entriamoci in questo quasi tutti bene. No, però attenzione, questa è una risposta degli italiani al fatto che, ti credo, le cose vanno male, l'Europa è una crisi terribile, noi siamo sul banco degli accusati, ma non deriva dal fatto che qualcosa nella televisione è cambiato. La televisione di intrattenimento è leggera, va peggio, e invece c'è fame di informazione, capisco. Beh, bene? Per esempio, voglio dire, guardiamo la 7, cioè alla 7 stanno succedendo le cose veramente inattese, cioè il boom di Mentana con numeri, con questo 10% e oltre che sta diventando il suo telegiornale, il boom di 8,5, pensiamo allo speciale di La Vitola che è stato un enorme boom d'ascolto, Crozza sulla 7 è stato un boom che non ha mai fatto prima, voglio dire, questa è una cosa nuova, come è una cosa nuova Banfi su Rete 4, che invece non ce la fa, che non riesce a trovare un suo pubblico. E perché è una cosa nuova? Tenuto conto che Alessandro Banfi è mio amico, io gliel'ho detto all'inizio, mi sono fatto coinvolgere due volte. Sto parlando detto, di proposte nuove, adesso sto parlando di striscia di palinsesto, no? È vero che la forma non si trova, cioè io parlo spessissimo con questi colleghi, come tu parli con Banfi, anch'io ci parlo, ho parlato con Formigli nell'ultima puntata, e il problema è che c'è questo maledetto problema fra basso costo e alto ascolto che producono questi prodotti. Tu gli continui a dire, ma guarda, che questo teatrio dei politici va rinnovato, smettete di invitare la compagnia di giro, no? Tutti noi glielo diciamo a questi colleghi continuamente, però loro con questa compagnia di giro continuano a fare ascolti, a parte appunto il problema di Banfi, che è un altro aspetto, sono forse la rete è sbagliata, però il problema è, secondo me, che noi abbiamo questa anomalia folle, cioè innanzitutto siamo un paese, ogni tanto bisogna ricordarci che l'America dagli indici d'ascolto, i risultati d'ascolto una volta alla settimana e noi tutti i giorni, e la nostra stampa lo usa come il giudizio di Dio sulla televisione, cioè lì c'è una patologia di fondo che ci spinge a giudicare tutto in termini di risultati d'ascolto, no? E questo secondo me fa male. I politici poi sono gli unici al mondo così presenti dalle 7 di mattina fino alle 2 di notte. Cioè noi viviamo un'anomalia, i politici non costano niente alla televisione, un talk show con i politici non costa niente alla televisione, è una televisione che in questo momento non ha risorse e allora si butta su questo prodotto. Non so come dire, non so se risolvo la domanda che mi stai facendo, però secondo me per bisogna avere presente tutto questo tutto questo quadro, insomma. Dopodiché c'è un problema anche di coraggio, secondo me. Secondo me la televisione italiana in questo momento è pochissimo pensata, per la ragione che dicevo prima. A furia di mettere dirigenti giornalisti, cioè gente che tutto sommato ha un rapporto col prodotto, come dire, insufficiente, alla fine è una televisione sempre meno pensata la nostra, sempre meno coraggiosa da questo punto di vista. Io sono parecchio d'accordo, no, sono un po' insoddisfatto rispetto alla domanda che avevo posto, spiego perché. Perché io dico il mio punto di vista, nel sentire Berlusconi che dice c'ho la televisione contro, si assiste alla paradossale conferma di una profezia che si autoavvera, come sempre, che da parte dei politici in generale capisco, se non sono molto esperto di televisione, quella di credere cioè che il calo di consenso di sondaggio dipenda da come una serqua di giornalisti cattivi, malintenzionati, servi dell'opposizione, eccetera, si accanisca tutti i giorni nel non dare conto di quello che fai davvero, nel mettere in cattiva luce ciò che fai, nel sottolineare soprattutto ciò che non fai, perché non lo fai, la gravità della distanza di ciò che ti chiede l'Europa rispetto a quello che ti è possibile, senza invece fare presente che non è Berlusconi a non volere la riforma della pensione, entrando nel merito delle faccende aperte nelle prossime 48 ore, ma è Bossi e Berlusconi come fa senza Bossi, quindi è frenato e così via. Ecco, quando Berlusconi ha detto è tutta colpa della televisione, in realtà esprime questa convinzione. Che lo dica e lo pensi davvero Berlusconi, che in realtà se un merito strepitoso ha prima della politica è quello di aver messo la televisione commerciale, di aver triplicato il totale del fatturato sul PIL commerciale in pubblicità italiano, che è una roba notevolissima che resterà nei libri di storia a prescindere da quello che ha fatto e non fatto in politica, è una cosa che secondo me esprime un'altra crisi della capacità di Berlusconi di concepire il suo rapporto con la realtà in termini poi di risultati di successo. Perché la mia opinione è che è vero, c'è quello che adesso ha detto Bernardini sulla 7, la novità, ma di fondo non mi pare che il meccanismo sia diverso da quello di prima. Di fondo l'insuccesso storico del centrodestra nel fare una televisione diversa da quella della rapina di Stato dell'occupazione del servizio pubblico, ma fatta con personaggi in cui si preferisce il camerierato rispetto che all'autonomia e l'indipendenza, ancora più che a sinistra dove invece le appartenenze politiche sono più forti, questi sono tutti giudizi miei, è un dato di lungo periodo. Chi sono i personaggi autonomi, indipendenti, cioè quelli equivalenti nel centrodestra che dicono io non faccio vedere il palinsesto agli ospiti, come Santoro, per essere chiari, dall'altra parte nessuno, perché il centrodestra non li ha mai voluti. Per questo alla fine, siccome non si innova, siccome si mettono giornalisti fedeli, come dice Bernardini, siccome poi alla fine i giornalisti nel complesso hanno un problema come quello che dice Aldo Grasso, non si battono per format domande secche che incalzano quando non viene la risposta, perché si è sempre amici di una parte, e lo vedo anche qua a Radio 24, io da che picchio perché le promesse non sono mantenute, e soprattutto perché c'è una crisi evidente con l'Italia che finisce nei guai sempre di più per colpa del non fare, a maggior ragione grave perché sono state promesse di questa maggioranza, di questo governo. Io c'ho una parte di ascoltatori che rifiuta questa cosa, perché dice come sarebbe a dire stai cambiando partito, io non ho partiti, io faccio il mio mestiere, criticabilissimo dal mio punto di vista, per questo ci vuole il pluralismo, ce ne vogliono tanti altri che la pensano diversamente da me, ma se vedo un problema devo indicare i dati di fatto. Se vedo tutti i giornali tedeschi che ogni giorno ci mettono sul banco, non posso poi stupirmi e ridurre il sorriso della Merkel a una specie di battutina come si fa nella politica italiana oggi, perché come giornalista devo informare sul contrario. Ogni giorno ci sono da mesi tonnellate di analisi di giornali che orientano l'opinione pubblica tedesca, i banchieri tedeschi, gli imprenditori tedeschi, i politici tedeschi come la Frankfurter Allgemeine o Financial Times Deutschland, che ogni giorno dipingono l'Italia come un paese forte economicamente e come imprese e come banche che hanno ottenuto di più, ma ridicolo nella politica. Allora, in questo io dico che il giudizio di Berlusconi è un giudizio che descrive un altro pezzo della sua crisi personale, perché non è possibile che proprio lui mi dica una cosa simile, perché in definitiva se l'offerta televisiva di giornalisti vicini al suo campo, che lui consideri non nemici, è meno capace, non oggi ma in tutto l'arco temporale di questo centrodestra, lo si deve a chi? Lo si deve a Silvio Berlusconi, questa è la mia esperienza personale. Dopodiché gli andava bene affinché le cose vanno benissimo, ma non puoi dire che se non vanno meno bene è perché è cambiato qualche cosa. Non è cambiato dal mio punto di vista assolutamente niente, tranne questa cosa di La Sette, che però quando si tratta di dire a Santoro va bene, non guardiamo allora la tua cosa, ti accontentiamo, marcia indietro e dice no. Cosa che io capisco e difendo, non è che sto dicendo, anzi capisco ma non difendo, va bene. Eccoci tornati qui a parlare del fatto se sia stata la televisione a modificare la percezione degli italiani del governo Berlusconi, dei suoi meriti e dei suoi demeriti, o se sia invece il contrario, una televisione non troppo cambiata attraverso la quale, con tutti i difetti e le approssimazioni, a mio giudizio molto serie e molto gravi, di come facciamo giornalismo politico e di approfondimento politico rispetto ad altri grandi paesi europei, il consenso modificato dagli italiani sia effetto di quello che vedono, ma non del fatto che cambi qualcosa nella scatola attraverso la quale lo vedono e lo ascoltano. Sentiamo una raffica di ascoltatori con la loro opinione, poi torniamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Fabrizio, che chiama dalla provincia di Pesaro. Prego Fabrizio. Buongiorno, io sono invece completamente d'accordo con quello che dice Berlusconi, che ci sia ormai da qualche anno il tentativo di screditare l'Italia colpendo il governo Berlusconi è innegabile, ma il problema è che non è nato oggi, ormai è tanti anni che i maggiori organi di informazione cercano di criticare ingiustamente il governo. Io ricordo qualche giorno prima di elezioni politiche di qualche anno fa, delle trasmissioni fatte da Santoro o con interventi di Benigni, trasmissioni a senso unico, che hanno spostato voti, hanno tolto voti al centrodestra per darli al centrosinistra. E d'altronde anche Radio 24 sta da tempo martellando per motivo di questa crisi il governo, dicendo che l'unico responsabile è il governo, mentre gli imprenditori, i lavoratori, i sindacati sono tutti innocenti. Per quello che riguarda la stampa estera, è logico, la stampa estera prendere notizie dai giornali italiani, se la maggior parte delle radio, dei giornali, delle televisioni dicono stupidaggini, di conseguenza anche all'estero dicono stupidaggini sull'Italia. Tra altre parti, a parte che Radio 24 poi c'ha un progetto politico dietro, ma questo è un altro discorso, ma dall'altra parte anche stamattina quando si è fatta l'introduzione a questa trasmissione non si è detto una parola di critica nei confronti dei due presidenti tedeschi e francesi per il loro comportamento nei confronti d'Italia. Già questa è un'ulteriore prova che si cerca di denigrare l'Italia per colpire Berlusconi, ma in realtà ci stiamo facendo del male da soli. Fabrizio, questione di punti di vista, perché la mia opinione è che a fare male al paese è chi non adotta provvedimenti che da tempo sapevamo che dovevamo adottare. Questa è la mia opinione, è un'opinione insindacabile, cioè io su questo non tratto. I microfoni sono aperti perché tutti gli ascoltatori molto critici come lei pensino che vi sia un piano politico su Radio 24. Mi piacerebbe che Radio 24 sia innanzitutto un piano strategico per sé. Ma mi viene da sorridere, ma detto questo è del tutto legittimo che lei la pensi così. Siccome io su Santoro e su chi fa informazione orientata pregiudizialmente, ho scritto per anni, non ho cambiato idea. Vedete, quello che mi colpisce è quanto siate deboli di memoria. Molto probabilmente non ve lo ricordate, questo è più che legittimo, perché avete di meglio da fare. Io sono d'accordo che chiedere coerenza però sulla base dei fatti a chi fa il giornalista. Io sto dicendo che non è cambiato nulla del fatto che il più dell'informazione serva. Non so se è chiaro quello che dico. Il problema è che in questo momento il centrodestra lavora serva e basta. E questo è sbagliato, capite? Questo è il mio giudizio. Non è che sto dicendo Santoro. Poi, quando ci sono dei dati di fatto, cioè 400 punti base di spread sui mercati, il mondo si divide tra chi è intelligente e capisce che bisogna fare delle cose e chi pensa che sia critica la patria, perché critica la patria è una roba che mi scappa da ridere. Però capisco, ci sono tanti italiani che continuano a vederla così, cioè un quarto degli italiani almeno nei sondaggi e probabilmente qualcosa di più dicono che comunque Berlusconi ha ragione anche su questo. Quindi io mi interrogo, lascio i microfoni aperti e dico: è possibile che secondo voi il presidente francese e quello tedesco ridano dell'Italia perché c'è una congrega di pazzi come me, non solo quelli schierati pregiudizialmente, ma addirittura di traditori che diventano traditori della patria oggi perché osano dire da mesi che l'azzeramento della pensione di anzianità dovuta a Rosimauro e a quattro leghisti che preferiscono le corti che maturano ogni anno il diritto è una cretinata? Ecco, io continuo a ripeterlo. Pensate che sia perché voglio che vada a casa casa al centrodestra perché voglio la patrimoniale al centrosinistra, allora non capite proprio niente se pensate questo. Io sono perché chi la pensa come me abbia diritto di identificare i sacri principi della difesa dello Stato liberale dei mercati, non con le stupidaggini personali degli attuali leader centrodestra, perché grazie al cielo le nostre idee sopravviveranno alle loro cazzate. Claudia da Bergamo, poi siete liberi di non pensarla così, e che solo Silvio Berlusconi vi dà la possibilità di impedire che arrivino i cattivi dall'altra parte. Io che non sto coi cattivi né di qua né di là, però se vedo stupidaggini penso che mi paghino finché mi pagheranno per dire le stupidaggini che sono in grado di vedere finché ho studiato. Se voi pensate che sia perché qualcuno mi paga, il giorno che prevarrete chiedete di sostituirmi perché avete ragione voi, non è che avrò ragione io solo perché penso di averla, dipende dai numeri. Claudia da Bergamo, prego Claudia. Buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea, prego parli. Allora, io guardo poco la televisione, ma quelle poche volte che la guardo vedo la superficialità assoluta. Mi è capitato di vedere in alcune trasmissioni in cui proprio lei, Oscar Giannino, era ospite, che le hanno tolto la parola perché proponeva approfondimenti accompagnandoli da dati di carattere economico. Le hanno tolto la parola, e cito, perché era troppo difficile per il pubblico a casa. Ora, io non sono del settore economico e quindi probabilmente i suoi dati non li avrei davvero capiti, però mi sono davvero offesa perché si offende l'intelligenza del pubblico, cioè non si dà neppure la possibilità alle persone che ascoltano di approfondire, di capire, ma si lascia tutto a capire le urla e quindi a degli schieramenti già precostituiti, per cui è vero quello che si diceva inizialmente, che alla fine di una trasmissione non si ha un approfondimento ma si rimane su sinistra destra, uno schieramento piuttosto che l'altro, e tutto finisce qui. Grazie Claudia. Rosalba sempre da Bergamo anche lei. Sì, buongiorno. Guardi, ho sentito il lancio del tema del giorno da parte sua quando avevo appena finito di scrivere una mail inviperita, lo ammetto, al GR Rai. Parliamo anche di radio, perché conta anche questo, siamo certamente, ascoltatori radiofonici. Il GR unico di Antonio Preziosi, o Graziosi che sia, di cui ieri, tra parentesi, ho letto appunto alcune cose nei colloqui La Vitola Masi, il GR unico, e questo mi piace, ma anche lei oggi, dottor Giannino, ha insistito stamattina con tono bonario a dire Merkel e Sarkozy hanno sorriso dell'Italia, Merkel e Sarkozy hanno riso beffardamente di Berlusconi, non dell'Italia, ma di Berlusconi. Io non mi sento derisa da loro, e ci mancherebbe altro. Cioè, veramente, l'informazione alla vaselina la chiamo io. Cioè, quell'informazione in cui tutto comunque viene ridotto a un qualcosa di bonario, tra capi di Stato un po' pazzerelli, un po' matti. Del resto Berlusconi faceva il segno col dito di quanto è matto Sarkozy, si ricorda. Quindi siamo ad un livello da spettacolo spaventoso. Ma Merkel e Sarkozy hanno riso di Berlusconi beffardamente, insisto, non hanno sorriso bonariamente dell'Italia. Allora, questa è un'informazione, secondo me, di quelle veramente da regime. A proposito di quello che chiedeva lei, certo che si è radicalizzata la situazione informativa, perché da un lato abbiamo avuto il Santoro, e secondo me anche un po' i Formigli, che comunque con la loro cosa piazzaiola esasperano, ma dall'altro abbiamo questi personaggi, questi servi veramente, cioè gente che probabilmente fa più di quello che gli verrebbe richiesto. Quindi è una situazione, secondo me, da fine regime, ma intollerabile, veramente intollerabile. Io non riesco più quasi ad ascoltare né Formigli, ma tantomeno questa informazione serva. Rosalba, guardi che però io all'inizio proponevo che proprio chi ha dato la lettura del sorriso come una cosa che era problematica, perché io purtroppo penso che abbia ragione lei, e dico purtroppo perché è un problema serio per la tenuta dell'Italia, ma sono molto d'accordo con quello che dice lei. Poi io non mi schiero in campo né di qua né di là, becco le botte da entrambi i tipi di ascoltatori di questi tempi, e questo posso capirlo, perché è ovvio che io continuo a dire cose fuori dagli schemi, per cui se fossi di amico della sinistra dovrei dire ci vuole la patrimoniale, e continua a dire di no, anche se lo dice Confindustria, l'editore di questa radio, e contemporaneamente non posso però nascondermi che questo è un governo che dal punto di vista dei risultati di ciò che aveva promesso stiamo anni luce rispetto a ciò che minimalmente va fatto, se uno ha la minima percezione della gravità del problema europeo e della responsabilità dell'Italia, primo emittente di eurotitoli, e invece non ci siamo per niente. E questo che un po' però io vedo che sconcerta anche gli ascoltatori, oltre che gli editori, perché anche per gli editori è facile campare mettendo un po' di qua e un po' di là. Pensate che una delle ragioni della 7 sia indipendente dalla situazione di Telecom e rafforzarsi prendendo ciò che gli altri editori non possono permettersi o hanno più difficoltà a permettersi politicamente, ma è ovvio che è così. Io capisco anche per gli editori le difficoltà, che non se la passano molto bene, e quindi magari ci si mette due belle, una alla destra e una alla sinistra, e si è più coperti che dei matti che invece non appartengono, per così dire. Anche questo è un problema di questi tempi, perché la politica è esigente, e soprattutto poi non è vero che dà ordini, ma è vero che quando scatta l'opinione come quella espressa da Berlusconi te la fa pagare se può. Questo è ovvio ed è sicuro. Ora qualche considerazione conclusiva affidata non a me, bensì a Fabrizio Rondolini, che ci ha raggiunto per telefono, e Massimo Bernardini. Fabrizio Rondolini, giornalista, direttore della Lista del Giornale, curatore con Claudio Velardi del sito thefrontpage.it. Secondo te che cosa è cambiato nell'offerta di informazione giornalistica in questi due anni, e che pensare del giudizio di Berlusconi? È vero che c'è un incarognimento al di là dei suoi risultati, o è lui che ha una percezione oramai assolutamente lontana dalla realtà, anche di cosa fa e non fa? Questo bisognerebbe, ahimè, altro che considerazioni conclusive. Tu mi chiedi una risposta da $1,000,000 da concentrare in pochi minuti, perché poi sai, il punto è che l'informazione in Italia, e noi forse dovremmo parlare di quello, in parte ho sentito un pezzo di trasmissione, così hai fatto, cioè è talmente anomala rispetto al resto del mondo, no? Allora, un network pubblico di tre reti, che non è pubblico nel senso che non ha nulla a che fare con il pubblico, ma è proprietà privata di gruppi dirigenti dei partiti, no? I quali mandano in tutti nei loro programmi, telegiornali, reti, approfondimenti, giornali radio e quant'altro, mandano un certo numero di portaborse a garantire, diciamo così, la correttezza ideologica dell'informazione, no? Di governo, di opposizione, di centro, di sinistra, di destra, eccetera. Dall'altra parte, l'altra grande televisione, non c'è bisogno di dirlo, è di Silvio Berlusconi, quindi per quanto bravi possano essere i nostri colleghi e amici di Mediaset, comunque sono stipendiati dal Presidente del Consiglio. I giornali, l'unico giornale indipendente in Italia, che a me non piace per niente, ma glielo devo riconoscere, è Il Fatto, che è fatto di azionisti, azionariato popolare, diciamo così, lettori e pubblicità. Tutti gli altri o sono giornali di grandi gruppi industriali, oppure sono giornali assistiti, quindi è il governo, i portaborsi, i sottosegretari che decidono se dare la mancia al Manifesto piuttosto che al Riformista, piuttosto che... Allora, in un panorama del genere, discutere l'informazione in Italia fa persino ridere, cioè io preferirei andare oltre e cambiare argomento. Non esiste l'informazione in Italia, esistono i padroni, diciamo così, ed esiste soprattutto un potere tentacolare della politica parassitaria, e senza fino a che non ci liberiamo di quella, io penso che siano veramente tutte chiacchiere. Beh, esagerato. No, capisco, perché questa è ancora più autoverberante rispetto a chi fa informazione, la tua opinione rispetto alla mia. Bernardini, però, ipotizziamo, siccome natura non facit saltus, e quindi è difficile immaginare che ci sia una così radicale modifica dell'offerta politica, editoriale, eccetera, eccetera, da consentire l'avveramento della linea Rondolino finché Giannino è in vita, e vuole campare molto, si è appena sposato, ma in realtà che cosa si potrebbe? Pensiamo, Bernardini, fatto direttore generale della RAI, che cosa fa Bernardini in coerenza a quello che ci ha detto prima? Secondo me il problema è ricostruire i quadri della RAI, per esempio, cioè secondo me in questi anni quello che, cioè da una parte è vero, cioè è come se i giornalisti, come dire, da battaglia fossero scappati per conto loro, e quindi in qualche modo la battaglia per la loro autonomia sembra l'unico orizzonte, e dall'altra poi in realtà gli altri non siano stati capaci di mettere in gioco, come dire, una diversità vera. Ma secondo me la televisione nasce dalla testa, cioè io confido per esempio nell'attuale direttore generale della RAI perché riesca a ripensare proprio la testa della televisione, cioè e secondo me bisognerebbe togliere un po' di giornalisti dalle reti. Bravo. Io sono d'accordo, per esempio, perché l'ha scritto anche Grasso, ma io lo sostengo da qualche anno. Questo è uno dei difetti, lo dico alla giornalista. No, certo, perché la televisione va pensata e fatta da esperti. La televisione fino a 20 anni fa non li aveva questi dirigenti, cioè aveva altri dirigenti che, come dire, in qualche modo avevano questi cavalli di razza che poi ci schierano, no? Che hanno tanta pancia, che il pubblico si appassiona funziona per loro, ma ci vuole qualcuno, come dire, che pensi il quadro complessivo, insomma, dell'offerta televisiva. Secondo me questa è la grande scommessa da giocare. Anch'io sono un po' pessimista, però. Certo, ma qui di ottimismo è una religione infondata nel nostro paese. Io ringrazio Rondolino Bernardini e ringrazio Aldo Grasso, con cui abbiamo cominciato. Ascoltatori liberali e liberisti, non pensate che ci siano i traditori. Se voi aveste protestato di più in questi anni rispetto a chi ha fondato e guidato il vostro movimento, oggi non sareste nella condizione in cui siete. Se aveste chiesto di essere più coerente rispetto al meno Stato e meno tasse in equilibrio, oggi l'Italia se la passerebbe meglio, il merito sarebbe vostro. È così che bisogna fare quando si hanno idee, altrimenti si è camerieri, a ognuno la sua livrea. Buongiorno, linea generale radio, e appuntamento a domani.